succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. La busta paga più gonfia è quella che arriva ogni mese ai cinque dirigenti di prima fascia dei monopoli di Stato, che nel 2007 hanno guadagnato in media 250.000 euro all'anno. Guardando alla dinamica però, a scoppiare di salute sono le retribuzioni dei dirigenti ministeriali, che tra il 2005 e il 2007 sono aumentate del 16,7% nel caso dei vertici apicali e addirittura del 23% per i dirigenti di seconda fascia. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi stamane Carmelo Lauricella. E io vi ho letto un servizio che c'è sul Sole 24 Ore: i ministeri guidano la corsa degli stipendi. Ecco, ci sono tutti i dati e poi ci spiega anche il Sole 24 Ore che c'è addirittura un motore di ricerca sul sito internet del Sole 24 Ore, un motore di ricerca tra le buste paga dei lavoratori pubblici, cioè che permette di individuare i livelli retributivi e il tasso di progressione in tutti i comparti del pubblico impiego. Quindi abbiamo uno strumento per andare a indagare. Naturalmente dalle tabelle che vediamo, niente a che fare, diciamo, grandi distanze, come è ovvio, ma tra gli stipendi anche massimi dei dirigenti pubblici e quelli invece dei dirigenti del settore privato. Basterebbe dare un'occhiata al libro di Giorgio Meletti, di Gianni Dragoni, la paga dei padroni, per capire che lì invece troviamo cifre davvero astronomiche. Però è sicuramente questa intervista, questo servizio, questa inchiesta sul pubblico impiego che oggi viene pubblicata al Sole 24 Ore è di un grande interesse, perché ci dà proprio una ragnatela di tutto ciò che avviene nel pubblico impiego. Tra altre cose, l'apertura è su un altro tema. Il Sole 24 Ore apre con questo titolo: promozioni garantite a tutti negli enti locali e nelle agenzie, scatti di carriera al 90% del personale. In media un dipendente su due ha ottenuto un avanzamento tra il 2005 e il 2007, beato lui. Insomma, le più generose sono amministrazioni locali e agenzie fiscali, che negli ultimi 3 anni hanno promosso più del 90% del loro personale. Ma tutta la pubblica amministrazione è di manica larga e tra il 2005 e il 2007 ha garantito avanzamenti a un dipendente su due. Vi voglio ricordare che proprio stamane, dietro la notizia che sarà condotta oggi lunedì da Gigi Donelli e non dal direttore Gianfranco Fabi, dietro la notizia si parlerà di pubblico impiego e saranno ospiti Gianni Trovati, che è uno degli autori, tra le cose, dei servizi che qui troviamo sul Sole 24 Ore, e Antonino Gentile della direzione dell'Agenzia delle Entrate del Trentino. Ecco, questo, quindi di questo si parlerà alle 8.30 e potrete tornare su questi argomenti che ovviamente interessano un po' tutti. Ora invece noi però dobbiamo spostarci e intanto ricordarvi che una delle notizie più di maggior interesse internazionale che troviamo oggi su tutti i quotidiani del mondo è: Iraq sì all'intesa con gli USA, via le truppe entro il 2011. Io vi sto leggendo uno per tutti, il Corriere della Sera. Raggiunto l'accordo sul ritiro degli USA dall'Iraq, i 150.000 soldati americani se ne andranno entro il 31 dicembre 2011. Il piano è stato approvato dal governo di Baghdad e segna la fine dell'invasione militare iniziatasi nel marzo 2003. Ora la parola passa al Parlamento iracheno. Già dal gennaio 2009 i militari cominceranno a ritirarsi dalle città. Soddisfazione dei neocon, i neoconservatori, quelli che hanno la base politica e sociale dell'amministrazione Bush. Siamo riusciti a eliminare Saddam e a portare la democrazia. Anche per il filosofo della politica Walzer si profila una conclusione migliore del previsto. Questo sul Corriere della Sera, ci sono ben due pagine, il sollievo dei neocon e l'intervista al filosofo che vi ho appena citato, Walzer. Ora, il Corriere della Sera però affida invece al suo vice direttore Dario Di Vico un editoriale dal titolo né 68 né 29. Che cosa vuol dire? Che cosa sono questi numeri? Beh, presto fatto. Dice Dario Di Vico, attenzione, non facciamo paralleli troppo osé e anche sbagliati, quella che viene chiamata la trappola delle analogie, il 68 col movimento, con la cosiddetta onda, e invece la crisi col la crisi che ci fu nel 29. Non pare che l'onda, a vedere anche il debole impatto dell'Assemblea Nazionale dei Collettivi Universitari conclusosi ieri alla Sapienza di Roma, abbia la stessa energia creativa del movimento di 40 anni fa. Né ci sono somiglianze tra la rottura anticonsociativa che la contestazione operò nei confronti dei poteri scolastici di allora e la pratica odierna che vede studenti outsider e professori insider marciare a braccetto contro il governo. Perché se è giusto sottolineare come il mondo della scuola sia una comunità di valori, è anche vero che dentro di essa prevale spesso una solidarietà di tipo corporativo, da lobby della scuola. Quindi dice Dario Di Vico, attenzione, non si possono fare, forse ha ragione, paragoni né analogie troppo semplificatrici attorno a questa questione, cioè movimento di oggi e contestazione del 68, anche perché, potremmo aggiungere noi, la contestazione del 68 aveva un respiro, direi, internazionale, se non meglio dire mondiale. Anche l'altra analogia, scrive Dario Di Vico, in voga in questi mesi, quella tra la crisi finanziaria di oggi e il crollo del 29, è suggestiva quanto ingannevole. Dario Di Vico richiama di nuovo, lo aveva già fatto recensendo il loro libro, gli economisti Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, che nel loro pamphlet Può la politica salvare il mondo? Dicono che bisogna stare attenti ai paragoni, perché allora nel 29 ci furono politiche economiche sbagliate, non si capì che non si doveva togliere liquidità, e poi ci furono politiche protezioniste. Oggi invece anche le previsioni più autorevoli, come quelle diffuse dal Fondo Monetario Internazionale per i prossimi 12 mesi, arrivano almeno per ora a pronosticare per l'economia USA una performance negativa dello 0,7% e per la zona euro dello 0,5%, risultati in parte bilanciati dallo sviluppo dei paesi emergenti. Insomma, dice, è chiaro che l'ordine di grandezza è totalmente diverso da quello del 29, concludono i due economisti, ed è difficile dar loro torto. Questo dunque Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Crisi, ecco il piano del governo, sgravi fiscali a imprese e famiglie per 4 miliardi. Epifani replica al ministro Brunetta, che dice che i fannulloni sono di sinistra, provi quel che dice o è un bugiardo. Lo abbiamo già sentito dai GR, questo tormentone ci terrà come dire in sospeso per qualche giorno, ma io voglio invece soffermarmi su quello che scrive l'economista Tito Boeri a proposito sia del G20 sia del piano del governo. Non è stato certo l'inizio di una nuova Bretton Woods, scrive Tito Boeri sulla Repubblica. Il G20 per il momento continuerà a essere ricordato solo come una popolare catena di supermercati francesi. L'unico vero risultato della riunione di Washington è stato quello di rendere irrilevante il G8 alla vigilia del suo messaggio sotto la presidenza italiana. Bene prenderne atto al più presto e gestire l'anno alla guida del gruppo per allargare stabilmente il coordinamento ai grandi sin qui esclusi, a partire dal Brasile, Cina, Corea del Sud e India. Vorrebbe dire aggiungere un ottavo di prodotto interno lordo mondiale al coordinamento internazionale, riconoscendo che l'uscita dalla recessione oggi dipende in gran parte dalla domanda che proviene dai paesi emergenti. Insomma, dice, scrive Tito Boeri, dobbiamo ringraziare questa volta la Cina. Perché questa enorme quantità di denaro messa in campo dalla Cina servirà non solo a sostenere la produzione cinese, ma anche ad alimentare la domanda di beni prodotti in Occidente. Forse la nuova edizione del bestseller La paura e la speranza di Giulio Tremonti dovrebbe contenere due parole di postfazione: grazie Cina. La riunione di Washington è anche servita, scrive con toni severi Tito Boeri, a mettere il nostro governo con le spalle al muro. Ormai tutti i grandi paesi europei hanno un piano contro la crisi finanziaria, si veda la scheda lavoce.info, oggi ripresa su Affari e Finanza, e hanno varato pacchetti fiscali a sostegno dell'economia. Siamo messi peggio degli altri, essendo ormai entrati anche tecnicamente in recessione dopo quasi 15 anni di stagnazione, ma sin qui il nostro governo non ha fatto nulla per contrastare la recessione. Da settimane si parla e si specula in borsa su misure a sostegno della ricapitalizzazione delle nostre banche, ma un piano non c'è, né si è visto sin qui lo straccio di un provvedimento anticiclico. Boeri dice che sì, adesso si parla di una cifra piuttosto consistente, ma alla fine, viste i vincoli UE e il rispetto, diciamo, del tetto del 3%, in realtà i miliardi saranno 3 o 4 al massimo, e non si capisce gli altri 75 da dove vengono fuori. Questo è la contestazione, diciamo, di Tito Boeri sulla Repubblica. La Repubblica in prima pagina un titolo che, a proposito delle vicende del G8 e la Diaz e le polemiche seguite alla sentenza, è un titolo un po' diverso: il Partito Democratico, bene Manganelli, in aula la verità sul G8. Dopo la lettera alla Repubblica del capo della polizia Manganelli sui fatti della Diaz, Veltroni chiede l'intervento del Parlamento. Manganelli aveva infatti annunciato: siamo pronti a fare luce su quel che è successo. Alle sue parole risponde il leader del Partito Democratico: la sentenza dei giorni scorsi, che ovviamente rispettiamo, lascia ampi spazi di incertezza e di ombra. Ora proprio quelle ombre vuole cancellare Manganelli, della cui fedeltà costituzionale nessuno può dubitare, e la sede istituzionale che ha il compito di accertare la verità dei fatti, anche al di là delle sentenze, è per prima cosa il Parlamento. Ecco, questo scrive la Repubblica a proposito della dichiarazione del capo della polizia, che si dice disposto a mettere in campo in Parlamento pubblicamente tutta la verità su quello che è avvenuto. C'è inoltre un Francesco Merlo che scrive invece a proposito di Villari, il rappresentante del PD, che ha accettato la presidenza della Comitato di Garanzia RAI, e scrive Francesco Merlo: è difficile entusiasmarsi per Leo Luca Orlando o per Riccardo Villari, scegliere tra un democristiano resuscitato e una mummia democristiana, e magari pensare che la sinistra sia incarnata dall'una o dall'altra o da tutte e due. Di sicuro Villari, che è stato eletto dai troiani a capo degli Achei, ma non si vuole dimettere, è un altro capolavoro berlusconiano, un capolavoro di mediocrità italiana. Tutti capiscono infatti che Villari non si dimette perché è un topo che da tutta la vita aspetta il suo pezzo di formaggio. E dunque adesso non gli importa nulla che a dargli il formaggio sia stato il gatto che del topo è l'antagonista. Questo è l'incipit, diciamo, un servizio molto lungo, molto critico, che spiega appunto la fenomenologia dei Villari, cioè di coloro, quello che ci capiamo, Francesco Merli, che possono passare da una parte all'altra degli schieramenti. Ecco, questo sul quotidiano La Repubblica. L'inserto invece di Repubblica, Affari e Finanza, apre con un punto, diciamo, dell'economia americana che è in questo momento il più debole: GM, l'agonia del gigante. Ed è Vittorio Zucconi che scrive: la più grande casa automobilistica del mondo è a un passo dal fallimento, e la quotazione in borsa è scesa ai minimi dal 43. La sua sopravvivenza dipende dagli aiuti pubblici sui quali si è aperto lo scontro politico, ed è proprio Barack Obama che, nelle dichiarazioni, nella prima intervista che ha fatto, ha detto: non si può non salvare il gigante, cioè GM, perché è una specie di simbolo degli Stati Uniti. La General Motors è il settore automobilistico, è il simbolo del capitalismo americano. Oh, Affari e Finanza poi si occupa di una cosa molto curiosa, cioè si occupa di Facebook e Renata Fontanelli dice appunto: benvenuti nel regno dei bannati. Ma chi sono i bannati? Beh, i bannati sono... benvenuti nel girone dei bannati, nuova categoria informazione su Facebook. Sono gli iscritti al circolo che vengono espulsi d'ufficio. Sì, è una curiosità, insomma, buttati fuori da Facebook, il giallo delle motivazioni. Quindi su Affari e Finanza Renato Fontanelli ci spiega che c'è davvero una nuova categoria, ognuno di noi può essere espulso, tra i quali si cita per esempio Daniele Bianchessi, caporedattore di Radio 24, attivissimo sul sito, ma che sembra sia stato espulso, e c'è un giallo, non si capisce con quali motivazioni chi entra in Facebook a un certo punto si può trovare espulso. Questo su Affari e Finanza. Ora volevo invece trasferirmi sul quotidiano Il Giornale. Il Giornale apre con un consiglio, diciamo, ai risparmiatori: ecco come avere soldi dalle banche, sopravvivere alla crisi, sei consigli pratici per negozi e piccole imprese a caccia di finanziamenti. Pronto il piano da 80 miliardi. Fra le novità, garanzie sui prestiti e anticipo IRPEF più leggero a dicembre. Il quotidiano, però Il Giornale, diciamo il pezzo, uno dei pezzi forti dal punto di vista politico del Giornale di oggi è l'intervista a Marco Pannella, che dice: Veltroni è un eversivo sulla vicenda Rai. Abbiamo visto poc'anzi le parole dure di Francesco Merlo sulla Repubblica a proposito di Villa, e qui invece dice Pannella: il leader radicale vuole a proposito di Veltroni, dice, vuole sovvertire il risultato di un'elezione regolare, ma le pressioni per far dimettere Villa sono un attentato ai principi della Repubblica. Ho sentito i miei avvocati, sono pronto a citarlo in giudizio. Non sto insultando gratuitamente il Partito Democratico. Quando dico che si sta mettendo in atto un comportamento tecnicamente eversivo per sovvertire il risultato di un'elezione regolare, sono pronto a dimostrarlo anche in giudizio. Ecco un Marco Pannella che spiega di aver consultato i suoi avvocati e annuncia e dice, insomma, che bisogna è disposto a uno sciopero totale della fame e della sete per aiutare i garanti della legalità, a cominciare dal Presidente della Repubblica. Che c'entra Giorgio Napolitano, onorevole Pannella? Se per caso Villari si dovesse dimettere, come il suo partito lo invita a fare, si ritornerebbe alla situazione di caos precedente e verrebbe lesa anche l'immagine del Capo dello Stato, che un mese fa aveva parlato di inderogabile obbligo costituzionale cui il Parlamento doveva adempiere, sia sull'elezione del membro mancante della consulta e sia sulla costituzione della commissione di vigilanza. Insomma, il caso di Villari eletto alla commissione di vigilanza continua a creare polemiche, ed è Pannella che in questo senso ci spiega come bisogna reagire. Il ritiro USA, missione compiuta in Iraq, sempre sul Giornale, Maria Giovanna Maglie che, come dire, scrive in sostanza un tributo a George Bush, dice: oggi l'Iraq è finalmente un paese che si avvia alla normalità, ma dobbiamo questo anche al presidente della Repubblica uscente. Gli ultimi giorni di Alitalia, costretti a tagliare i voli. Questo è un servizio che compare sulla prima pagina del quotidiano La Stampa. Un'altra giornata di passione ieri per chi si sposta con gli aerei, altri 50 voli sono stati cancellati. Ed è scoppiata subito la polemica tra i ribelli del fronte del no e la CAI. È colpa vostra questo disservizio, l'accusa dei primi. In maniera indiretta Fantozzi ha ammesso che c'è qualcosa di vero. Abbiamo 2,3 miliardi di debiti e siamo costretti a risparmiare per evitare che all'improvviso collassi il sistema dei trasporti aerei nazionali. A tal proposito, ha detto il commissario, potrebbe essere una soluzione valida anticipare la riduzione di qualche volo. Questo sì, è la proposta che farà discutere. Ma ma io della stampa, dove abbiamo anche considerazioni, per esempio quella di Boris Bianchieri a proposito di Baghdad, dell'accordo che si sta firmando, un regalo da Baghdad, il regalo è per Barack Obama, che dice insomma non ha dovuto neanche lavorare tanto da questo punto di vista, mentre critica è la situazione in Afghanistan, più impegnativa. Ma dicevo, sul quotidiano La Stampa, mi ha colpito questo, l'effetto Obama scatena i razzisti, ed è Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa da New York, a scrivere, soprattutto al sud ma anche in stati liberal. Croci bruciate, fantocci impiccati, lotterie sull'assassino del presidente, aggressioni e ogni sorta di insulti razzisti, a volte lanciati anche da bambini. È il ritratto della galassia dell'intolleranza contro gli afroamericani che il Southern Poverty Law Center di Montgomery in Alabama documenta in un rapporto che enumera quanto è avvenuto all'indomani della vittoria di Barack Obama nelle elezioni americane. Si tratta di centinaia di incidenti, come scrive Mark Potok, il direttore dell'Intelligence Project, che ha curato lo studio, avvenuti dalla California al Maine, anche se concentrati in gran parte negli stati del sud, con un'ondata di atti di razzismo frutto della reazione dei settori più intolleranti e a un risultato elettorale non gradito. Sfogliando le pagine del rapporto ci si immerge in una realtà di odio contro gli afroamericani che i maggiori mezzi di informazione in America tendono a minimizzare. A Snellville, un piccolo centro della Georgia, Daniel Milner ha visto la figlia di 9 anni tornare a casa in lacrime dopo essere stata insultata da un coetaneo bianco che sullo scuola bus le ha detto: spero che Obama sarà assassinato. Lo stessa notte la cognata di me ha avuto il giardino devastato dai vandali. Insomma, è davvero una cosa che fa una certa impressione vedere come dopo questa clamorosa elezione, diciamo anche per le tradizioni razziste degli Stati Uniti, questa elezione di Barack Obama, adesso si scateni questo fenomeno, come ci racconta Maurizio Molinari sul quotidiano La Stampa. Il Alberto Bisini invece sulla Stampa sempre dice: è meno severo di Tito Boeri sulla Repubblica a proposito del G20, dice: è facile sorridere davanti ai proclami pomposi sull'importanza storica della riunione del G20, sulla nuova Bretton Woods e via dicendo. A Bretton Woods è stato ridisegnato il mercato finanziario internazionale del dopoguerra, l'accordo ha sancito la centralità dei mercati finanziari americani attraverso un sistema di pagamenti internazionali a cambi fissi centrato sul dollaro e sotto la supervisione del Fondo Monetario Internazionale. Niente di tutto ciò è accaduto al G20, però dice insomma il carattere simbolico, il fatto che alcuni paesi emergenti sono entrati è importante, questo si legge sul quotidiano La Stampa. Il Corriere Economia, cioè l'inserto o il dorso, come volete chiamarlo, del Corriere del lunedì, Corriere Economia appunto, apre con questo titolo: Stock Option, festa finita. E qui non sorrideranno i grandi manager che con le Stock Option si sono davvero arricchiti in questi ultimi 10 o 15 anni. Dagli Stati Uniti alla Germania, passando per la Gran Bretagna, la crisi spazza via i super compensi dei manager, i piani del governo italiano, il caso pilota di UBS, fino a metà dello scorso anno erano osannate, celebrati come star, i pagatissimi super manager del capitalismo globale guadagnavano iperboli e facevano guadagnare molto alle loro aziende e ai loro azionisti. Poi la tempesta perfetta della finanza ha gettato nel baratro i corsi di borsa. Così sono partiti i tagli e qualcuno, come il nuovo amministratore di UBS, chiede anche di venir risarcito. Ah, questa è la novità che viene sottolineata da Corriere Economia e che analizza gli svizzeri fanno da apripista, interessante devo dire, cari manager ridateci i bonus, addirittura gli chiedono i soldi indietro e chissà come andrà a finire questa storia. Volevo Scusate, no, volevo segnalarvi sempre sul Corriere Economia una inchiesta che anche di grande interesse, viaggio nelle aziende, allarme di Banca Italia, Veneto in recessione, cioè il mitico nord-est in recessione, ecco, è forse la cosa che potrebbe farci più paura, visto che lì in quella zona ci sono una miriade di piccole e medie imprese. La Banca d'Italia lancia l'allarme recessione in Veneto già per questo trimestre. Un viaggio nelle province più industrializzate ed esportatrici conferma i timori. Da Treviso a Vicenza è già lunga la lista di aziende che aprono vertenze e chiedono la cassa integrazione. E l'anno peggiore per tutti sarà il prossimo. Lo conferma Renzo Rosso, che è fondatore, proprietario di Diesel, avete presente i Blue Jeans. È ora di tagliare i costi. Eh sì, e questo è un viaggio del Corriere Economia interessante in quest'area. Il quotidiano L'Unità invece torna sul caso Englaro. Padre nostro, questo è il, come dire, il titolo d'apertura della, di copertina. Nessuno rispetta il silenzio. Vescovi, politici, fiction TV, è un assalto contro la famiglia di Luana Englaro. Questa è la posizione del quotidiano L'Unità. Poi Staino, il vignettista, prende posizione anche sul caso Villari, che, di cui già abbiamo parlato. Avrà fatto scuola questo triste esempio di Villari? Subito. A Firenze Matteo Renzi chiede al PDL di eleggerlo alle primarie del PD. Insomma, questa ironia. In nome del padre c'è la direttrice dell'Unità, Concita De Gregorio, che appunto scrive di questo. E ancora un servizio di primo piano: non c'è pace per Eluana, monta una nuova crociata. Scienza e Vita fa campagna su Facebook, no alla prima esecuzione capitale in Italia. E anche qui si nota un tempismo Rai, ecco la fiction sul bimbo che si svegliò dal coma. Questo per richiamare e per, dice il servizio, su questo sceneggiato Rai, per suggestionare l'opinione pubblica. Mentre in furia la polemica sul caso Eluana e mentre Beppino Englaro sta per accompagnare sua figlia per l'ultimo viaggio, sul primo canale la storia del miracolo di un bimbo uscito dal coma. Un caso, si chiede il quotidiano L'Unità, mentre il messaggero, acconti fiscali meno pesanti, oltre al bonus per i redditi più bassi, anche l'IVA di cassa. E questo è il titolo principale. Riformare la governance, una sfida per l'Europa, scrive invece Paolo Pombeni. Il vertice del G20 non va archiviato troppo in fretta. Da tanti punti di vista esso ha segnato emblematicamente la fine di un'era politica, quella della fiducia illimitata nel libero mercato, anche se non è ancora chiaro quale sarà la strada che si va ad imboccare. L'unica cosa che sembra certa è che non potrà essere una strada imposta unilateralmente da uno solo degli attori internazionali. Ho il quotidiano Il Messaggero, ovviamente per ragioni anche geografiche, dà grande spazio al derby dell'Olimpico, decide un gol del brasiliano, partita tiratissima, la Roma è bestiale, Battista batte la Lazio. E qui c'è un servizio di Enrico Maida. E poi ancora, sai che c'è? Lo dico al Messaggero, due tifosi al bar, la città è il suo giornale. Ecco, un servizio proprio sul Messaggero e sul ruolo che il Messaggero ha nella città di Roma. E con questa segnalazione io ho finito il mio tempo, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.